209. Pollo fritto coi pomodori. Ogni popolo usa per friggere quell'unto che si produce migliore nel proprio paese. In Toscana si dà la preferenza all'olio e in Lombardia al burro e nell'Emilia al lardo che vi si prepara eccellente, cioè bianchissimo, sodo e con un odorino di alloro che consola annusandolo. Da ciò la strage inaudita in quella regione di giovani pollastri fritti nel lardo, coi pomodori. Nelle fritture di grasso io apprezzo il lardo perché mi sembra dia un gusto più grato e più saporito dell'olio. Il pollo si taglia a piccoli pezzi, si mette in padella così naturale, con sufficiente quantità di lardo, condendolo con sale e pepe. Quando è cotto, si scola dall'unto superfluo e vi si gettano i pomodori a pezzetti dopo averne tolti i semi. Si rimesta continuamente finché i pomodori siansi quasi strutti e si manda in tavola.